America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. And a special thanks to the President of the United States of America. Avete sentito la festa? Donald Trump. Perché? Beh, perché in Georgia c'è stata una elezione ieri straordinaria per rimpiazzare Tom Price, un deputato repubblicano che era stato nominato proprio da Trump segretario alla salute. E che ha vinto? Ha vinto Karen Handel. Ecco, l'avete sentita poco fa quando la folla acclamava lei e il presidente americano. La Handel ha 55 anni, ha tirato un sospiro di sollievo perché combatteva contro un astro nascente dei democratici, John Ossoff. Sentiamo. The fight goes on. This is the beginning of something much bigger than us. Ecco, avete sentito qui la voce giovane, pensate, Ossoff ha appena 30 anni, aveva mobilitato una gran quantità di gente, 12.000 persone, 12.000 volontari che erano andati casa per casa, ma non ce l'ha fatta. E comunque un volto nuovo per il Partito Democratico che, nonostante tutto, nonostante le difficoltà di Trump, non riesce a farcela. Ma oggi vorrei chiudere con la politica e parlare di un fatto di cronaca. Ricorderete l'episodio di Geronimo Yanez, poliziotto che uccise Philando Castle a sangue freddo. Lo ricorderete perché la fidanzata fece le riprese, era seduta di fianco a lui, fece le riprese e andarono viral su internet. Ebbene, pochi giorni fa Geronimo Yanez è stato assolto e ieri abbiamo visto il video da un'altra prospettiva, dalla macchina della polizia, in cui si vede il poliziotto che perde la calma e spara. Sentiamo, perché è un momento drammatico. I have to tell you, I do have a firearm on me. Don't reach for it then. Don't pull it out. Ecco, avete sentito la dinamica? Philando Castle dice: guardi che io sono armato, però la mia pistola è tranquilla. Lui dice: non toccarla, perde la calma e gli spara. Questa è la dinamica che ha portato a questo assassino. Dopodiché si sente questa voce che continua a urlare, a un certo punto si apre una porta e spunta una bambina fragilissima, piccolissima, voglio dire l'immagine dell'innocenza, e un poliziotto che la porta via era la figlia di Lavish Reynolds. Insomma, di nuovo ieri con questo video le tensioni razziali sono aumentate enormemente, tensioni razziali di cui parliamo da molti tempo e che, pensate, hanno persino raggiunto un museo, il Whitney Museum. Una storia abbastanza incredibile, certamente molto interessante. Sentiamo. A group of artists led by the UK painter Hannah Black demanded that a museum curator remove and destroy a painting from the Whitney Biennial. Ecco, Whitney Museum, il museo più nuovo a New York, bellissimo, disegnato da Renzo Piano, grande centro intellettuale e culturale non solo per la città ma per il paese, e downtown ha rivitalizzato un quartiere, ha aperto la sua mostra biennale che è dedicata a giovani artisti contemporanei o comunque ad artisti contemporanei. In questo caso, di nuovo, il tema di sottofondo, soprattutto da una parte della mostra, era quello di seguire, di esplorare il problema degli afroamericani, dei diritti civili, i diritti civili delle minoranze che spesso sono perseguitate. Che cosa è successo in questa mostra? Beh, è successo che Dana Schutz, un'artista americana molto accreditata, molto brava, giovane ma in forte ascesa, ha scelto come soggetto per la riproduzione in un quadro una foto drammatica, la foto di un ragazzo di colore, di un ragazzo nero, Emmett Louis Steele, che è stato ucciso e massacrato da un gruppo di bianchi. Ecco, la cosa strana è che questo quadro molto bello, molto suggestivo, doveva essere un quadro di denuncia degli abusi nei confronti degli afroamericani, doveva essere a favore degli afroamericani, e invece, beh, la cosa si è trasformata in un attacco a quest'artista da parte delle comunità afroamericane, che dicevano: non puoi permetterti tu, donna bianca, di sfruttare una nostra tragedia a fini di lucro, riproducendola in un quadro che sarà venduto. His family was notified 3 days later that Emmett's body had been found in the Tallahatchie River, 25 miles north of Greenwood, Mississippi. A 200-pound fan from a cotton gin was tied to the body with a strand of barbed wire. Ecco, la storia è una storia veramente drammatica. Questo ragazzo, figlio unico, tra l'altro, di una madre single, di una single mother, Mamie Till Bradley, era un ragazzo vivace, intelligente, brillante, viveva in un sobborgo di Chicago, ad Argo, dove l'emancipazione dei neri negli anni 50 era molto più avanzata rispetto a quella che poteva esserci nel sud del paese. Ecco, che cosa succede? Che a un certo punto uno zio visita la famiglia e gli dice: ma perché non vieni in Mississippi, dove ci sono le radici della tua famiglia, e passi un periodo di vacanza a casa con i tuoi cugini? E così fa, il ragazzo parte. Arrivato in questo paesino del Mississippi, dove c'è il delta del fiume Mississippi, questo ragazzo si ambienta abbastanza presto, va in paese, va in un negozio di alimentari, c'è una ragazza giovane che vende al di là del banco, e da lì scoppia il disastro. Perché che succede? La ragazza afferma che Emmett Louis Till le abbia fatto delle avance o non l'abbia trattata con rispetto. Lo riferisce al marito, il marito si infuria e con altre due persone, tra cui un nero, attenzione, si reca nella notte nella casa dello zio di Emmett, preleva il ragazzo e lo massacrano. La madre fa una scelta coraggiosissima, decide che questa immagine del figlio deve diventare pubblica per dimostrare quanto gli afroamericani siano oggetto di violenze e discriminazioni nel sud o comunque in America. Che succede? Beh, grande scandalo, ma questa foto, che naturalmente ha colpito l'immaginazione del paese, non ha l'effetto desiderato. I due assassini vengono assolti in una corte del sud. Insomma, questa è una delle classiche storie su cui il movimento per i diritti civili e gli afroamericani ha costruito poi la sua strada. Diventa un punto di riferimento Emmett Till. Ecco, per questo Dana Schultz ha deciso di ispirarsi a quell'evento per questo suo quadro. Ecco, ora io non so come andrà a finire questa storia, ma trovo che gli artisti neri che hanno chiesto che questo quadro venisse rimosso, che addirittura venisse bruciato, perché non poteva esserci un quadro di un bianco che parlava dei problemi afroamericani, devo dire, porta questa polemica al di là dell'accettabile. La signora Schultz ha cercato in qualche modo di contribuire a quella che è la causa comune di tutti, perché qui non c'è bisogno di essere di colore nero o bianco per difendere i diritti di una minoranza. Eppure, sbagliando, secondo me, movimenti come Black Lives Matter si sono schierati contro di lei, hanno attaccato il Whitney, che per ora, giustamente, resiste. Il quadro resterà al suo posto e la Schultz ha detto che comunque questo quadro non sarà mai venduto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di una tragedia del sud, abbiamo parlato della storia di questo 14enne, Emmett Louis Till, che è stato ucciso, massacrato da bianchi razzisti, e dunque vorrei lasciarvi con un grande classico dei blues, delle piantagioni del sud, Down by the Riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Oh, down by the riverside. Yeah, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. I'm gonna study, study war no more. War no more. I ain't gonna study war no more. I'm gonna study war no more. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!